Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorata di te. C'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente, di tutta quella gente che non sei tu. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorata di te, c'è che ti voglio tanto bene, che il mondo mi appartiene, il mondo mio che è fatto solo di te. Come ti amo, non posso spiegarti. Cosa sento per te? Ma se tu mi guardi negli occhi un momento, lo puoi capire anche da te. Che cosa c'è? C'è che io ora vivo bene, se solo siamo insieme, se solo ti ho vicino, ecco che c'è. Cosa c'è?